blog. Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. La rivista passata dal Presidente della Repubblica e dal Ministro Pacciardi giustamente apre le celebrazioni del terzo annuale della Repubblica. Perché in questi giorni luminosi, come in quelli più oscuri dei compiti quotidiani, l'esercito simboleggia la devozione verso la patria e i suoi istituti. Salutiamo i carabinieri, la cui bandiera riceverà oggi la medaglia d'oro al valor militare dal Presidente. Anche il generale Clark ha voluto salutare il nostro ricostruito esercito. La bellezza, la cadenza della sfilata. Questo è quello che l'Istituto Luce trasmetteva nel 49 sul 2 giugno. Domani molti di voi si accorgeranno che è il 2 giugno perché probabilmente vedranno in televisione una parata militare. Ma cosa c'è dietro questa data del 2 giugno? Perché ancora, in maniera devo dire piuttosto stracca, piuttosto disattenta, non così sinceramente, profondamente sentito a livello popolare, anzi nella memoria storica questa è una data che ha subito più di un anatema nel corso di vari periodi, comunque sia è una data importante, è la data probabilmente più importante per la Costituzione della Repubblica Italiana. Ma perché il 2 giugno e non il 5 giugno, Marco Pizzo? Ho visto che il 5 giugno è stato proclamato, diciamo, l'esito del referendum. Perché hanno scelto il 2 giugno? Perché era la data proprio cardine in cui praticamente si andò a votare. E quindi suonava meglio 2 giugno, anche per quello che aveva detto il signore dell'Istituto Luce, la data di Matteotti, la data, cioè c'erano dei motivi storici in più. E tra l'altro recuperava delle festività istituzionali che già si svolgevano nella prima settimana di giugno, tipo la festa dello Statuto. Quindi recuperava una tradizione storica e civile precedente. Ricordo, la persona che ho interrogato è un nostro ospite abbastanza consueto, comunque Marco Pizzo, che è direttore del Museo Centrale del Risorgimento a Roma, che questa mattina assieme a noi sta cercando di dare contenuto a quello che domani accadrà. Il 2 giugno per molti, come ho detto, è la sfilata, è la parata militare. Anche questa parata militare, che è un termine che non si usa più, ha avuto varie ripercussioni a seconda delle mutazioni dell'opinione pubblica negli anni, Marco Pizzo. Eh sì, perché la parata militare era vista come l'esaltazione del militarismo della nazione, quindi in alcuni anni venne addirittura sospesa, venne sospeso il 2 giugno, annullata la parata e quindi in qualche maniera si annullò anche l'idea stessa di festa della Repubblica. Cioè una delle tradizioni civili italiane, che era una festa laica, venne accorpata alla prima domenica e questo durò per una ventina di anni, dagli anni 70 fino al 2000. Ecco, anche perché dobbiamo ricordarci, erano gli anni della cosiddetta austerity e c'erano delle operazioni che oggi sembrano ridicole, le domeniche a piedi, la luce si spegneva, una tristezza generale, e si pensava di risparmiare soldi eliminando una festa e spostandola alla domenica, quindi una festa in meno, che il risparmio era vicino allo zero, ma si otteneva anche l'effetto deleterio di depotenziare una festa transeunte, mobile, che andava una domenica così e doveva essere la festa più importante. No, ma si invece raggiungeva un effetto specifico, cioè si annullava la memoria di una storia repubblicana. Cioè annullare la festa significava in qualche maniera coprire il fatto che si volesse commemorare e celebrare degli eventi storici che avevano preso vita dal 46 fino agli anni più recenti. Gli ascoltatori più giovani probabilmente non hanno percezione di quello che fosse il clima che si respirava negli anni 70. Vi mando un breve assaggio ricordando che le persone di cui sentite l'audio, sempre in un filmato storico, sanno, l'anno 1974, erano militari, erano giovani che stavano svolgendo il servizio militare. Al tempo ancora la naia era obbligatoria, anzi era anche piuttosto prolungata negli anni 70, era più di un anno, mi sembra fosse un anno e mezzo, e sfilavano in piazza col volto bendato, con il pugno chiuso, erano i cosiddetti proletari in divisa. 25 aprile, in piazza soldati, operai, studenti. No, fanno la commemorazione, la fanno insieme ai Luigi, però uno sbaglio grosso è stato anche che il giorno della commemorazione dei caduti in piazza del Duomo abbiano fatto la commemorazione assieme ai generali. Ma quando mai ho visto i generali la resistenza? Dio Cristo, ma non si vergognano? Anche vediamo se con Marco Pizzo riusciamo a ridare contesto a queste voci. Anziani arrabbiati, anziani imbufaliti, si mischiano gli eventi, la resistenza, le forze armate, la lotta proletaria, l'incipit di quelli che poi chiameremo gli anni di piombo. Era molto difficile in quegli anni dare l'idea che in realtà dal referendum alla nascita della nazione comunque parte l'avevano avuto le forze armate. Sì, perché si fa corpo un'idea che celebrare le forze armate significava in qualche maniera celebrare il fascismo. Non a caso, dopo gli anni 60, tutti i musei storici militari vennero chiusi, abbandonati. Cioè, e ancora oggi noi subiamo questa situazione, cioè è pochissimo identificabile una storia militare italiana. E quindi la parata militare, la storia militare, recuperava una tradizione storica che in qualche maniera voleva fare una damnatio memoriae del fascismo. Veniva accumulata a quel periodo storico e quindi veniva negata. Ecco, tu sei l'uomo che vive tra i reperti della nostra storia. Il Museo del Risorgimento, un museo che arriva fino alla Prima Guerra Mondiale, mi sembra. Questo viene inteso come, cioè, materiale archivistico inerente al Risorgimento. Ecco, qual era la percezione in realtà generale negli italiani, da quando l'Italia è stata fatta, nel rapporto con le forze armate? Quando c'è stata questa mutazione forte che forze armate sono state identificate con qualcosa di negativo? Ecco, io lo dico in maniera abbastanza orgogliosa. Il mio museo nasce anche durante la Grande Guerra per conservare il contemporaneo. Cioè nel 1915 da me arrivavano tutti i cimeli possibili e immaginabili della Prima Guerra Mondiale, che era una guerra in contemporanea a quando sorse il mio museo. Ma dal 1921, col trasporto del Milite Ignoto, inizia a esserci una cesura, non si documenta più il contemporaneo, perché lo documentava in qualche maniera il fascismo con la mostra del decennale della marcia fascista, e con l'avvento della Repubblica si annulla completamente ogni connotazione di storia contemporanea. Tant'è che oggi in Italia non esiste alcun museo di storia contemporanea. Quindi l'anatema contro il fascismo di conseguenza ha avuto un'onda lunga, è stata l'anatema su tutto quello che era la memoria storica archivistica riguardo al rapporto tra forze armate e società civile, perché di questo si parla. Beh, basta pensare che il Vittoriano, che era in qualche maniera identificato come l'altare della patria e quindi un simbolo tra virgolette da combattere, fino al 2001 era chiuso. Non si poteva visitare, era un monumento immobile, ma non solo, veniva proposto di abbatterlo, di dipingerlo a pois, di farlo diventare un rudere contemporaneo, cioè in qualche maniera di annullarle la memoria, perché era inviso, era brutto, mentre a oggi è riconosciuto come l'unico monumento liberty esistente in Italia. Ecco, se fosse mai possibile fare una proposta, cominciare a ragionare da questi microfoni a qualcosa di propositivo, cos'è che manca secondo te, Marco Pizzo, per colmare questo tassello che già è molto difficile da collocare, perché abbiamo visto che ci vuole una grande fatica e soprattutto ci vuole una grande leggerezza di pensiero, liberarsi tutto il pregiudizio? La storia ha già dato i suoi giudizi sui momenti più oscuri, quindi è il momento che questi momenti vadano analizzati nella vivacità dei reperti che ci raccontano noi la nostra storia, le nostre radici. Ma noi ci siamo dimenticati che la storia italiana moderna e contemporanea, diciamo dal 45 ai giorni nostri, spesso dai ragazzi non viene proprio conosciuta. I nostri reperti storici, anche quelli che invece sono molto noti all'estero, e parliamo dalle Teche Rai all'Istituto Luce, alcuni archivi dei partiti politici, non hanno alcuna visibilità. I ragazzi, per fare storia anche del boom economico, per non parlare del terrorismo, non hanno strumenti didattici a disposizione, mentre un museo di storia contemporanea esiste in tutti i paesi europei, dalla Germania alla Francia. Sono musei frequentatissimi, usati come ausilio storico. Ecco, quando parliamo di storia contemporanea, o perlomeno di storia del nostro paese dal 45 oggi, parliamo di episodi che hanno fortemente segnato non soltanto, diciamo, la coscienza nazionale, il sentire generale, ma anche alcune importanti espressioni. Oggi si parla tanto di Made in Italy, ci si cerca di riaggrappare con le unghie, con i denti, a quelli che furono i fasti della nostra innovazione e creatività negli anni migliori del dopoguerra. Però manca l'idea di repertare questo, di farne un percorso percorribile al di là delle varie mostre specifiche. Sulla Tuscolana sorge l'edificio dell'Istituto Luce, parzialmente ricostruito. Lo visitano Andreotti e un gruppo di senatori accolti dal presidente Fattorosi. Il commissario per la sanità e Umberto Terracini osservano il reparto di sviluppo e stampa riattrezzato ad uso della produzione cinematografica. I visitatori proseguono alla volta di Cinecittà, cancelli ambiti dagli aspiranti alla gloria del film. Gli ospiti vi trovano il benvenuto di Cambi, Marconi e del dottor Luzzatto. Anche su Cinecittà ci fu un anatema, questo è del 50, questo documento, questo pezzo, la settimana Incom, la riapertura di Cinecittà, perché probabilmente era stata chiusa prima. Cinecittà ha subito la sorte dell'ammazio memoria anche su Cinecittà. Sì, perché Cinecittà e l'Istituto Luce erano emigrati nella Repubblica di Salò, Cinecittà si era trasferita a Venezia. Quando ritorna in Italia, cioè quando ritorna a Roma nel 45, c'è una sorta di momento di come mi identifico, e quindi nascerà per esempio anche Luce, la settimana Incom, che è un'altra nostra specifica bellezza italiana, perché ci racconta gli anni del boom della dolce vita. Il cinegiornale l'abbiamo inventato noi. Il cinegiornale l'abbiamo inventato noi, e non solo, il target, l'obiettivo anche di modalità di racconto, che è quella del Luce e dell'Incom, è quello che viene esposto nei più grandi musei internazionali di arte contemporanea. Cinecittà rinasce, Cinecittà ricomincia, Cinecittà oggi è naturalmente un parco a tema alla periferia di Roma, è qualcosa che ospita gli studi televisivi dei talk più nazional popolari. Ci fermiamo un istante per il traffico, riprendiamo con Marco Pizzo fra proprio un minuto. Melog. Cronache meridiane. Mare, spiaggia e alberghi, così per chilometri e chilometri. E la riviera adriatica della Romagna, la costa d'oro del turismo italiano, come si presentava la scorsa estate. Rimini, Cattolica, Cesenatico, Riccione, nomi che molti turisti stranieri conoscono quanto Roma e Napoli. Circa 17 milioni sono state le presenze l'anno scorso, con almeno 4 stranieri su 10. Ecco, questi sono le previsioni degli sempre quest'anno degli stili narrativi che hanno contraddistinto comunque un prodotto che è stato tipicamente italiano. Diceva però Marco Picchè, parliamo della settimana Incom, che era il sostituto della televisione per chi andava al cinema, c'era invece della pubblicità la settimana Incom, che era un formato che passava dal gossip alle veline ufficiali, in cui c'erano ministri che tagliavano nastri, ma c'erano anche delle letture salaci, per modo di dire, secondo lo spirito e il pudore dell'epoca, rispetto ai divi o persone sconosciute. Era un po' una specie, una via di mezzo fra Novella 2000 e un giornale ufficiale, però era ben confezionato. Come nasce la settimana Incom e cosa rimane oggi della settimana Incom? La settimana Incom nasce proprio con la volontà di fare un rotocalco cinematografico in cui ci fosse la politica, la cronaca, il costume. L'alto e basso, come si direbbe oggi. L'alto e il basso, ma anche, e questo è un grosso pregio della settimana Incom, la contemporaneità. Cioè le uniche testimonianze, per esempio, dell'arte contemporanea italiana degli anni 50 e 60 sono nella settimana Incom. Vedere Fontana, le grandi mostre di Venezia, è possibile solo la settimana Incom. Per la più attenta della televisione, diciamo, parrocchiale del tempo a quello che accadeva alla contemporaneità, diciamo, era anni luce avanti rispetto alla tenuta della televisione in quegli anni. No, captava proprio quelli che erano il gusto della gente, anche se ne dava una visione distorta, cioè faceva vedere l'astrattismo come opera di alcuni artisti dementi, in cui chiunque poteva fare quello che vedeva. Certo. Però comunque documentava tutto quello che succedeva e documentava anche il grande e il piccolo, cioè non dando delle priorità di merito o di gusto. Questo era un formato che ci eravamo inventati noi e oggi rappresenta una nostra grande fonte di archivio, che fortunatamente è tutto consultabile, è tutto. E dove si trova? Nel sito dell'Istituto Luce. Ed è tutto digitalizzato, libero alla consultazione, ma anche lì chi insegna a leggere la settimana Incom? Chi sa che è tutto consultabile? Manca spesso questa forma di comunicazione storica, perché la settimana Incom è una documentazione storica contemporanea, tra l'altro libera e gratuita. La domanda potrà stupirla, me ne rendo conto. Lei venderebbe un occhio? Ma non si impressioni, santo cielo, lei può rispondere quello che vuole, ci mancherebbe altro. Scusi. Scusi. Siamo qui come dei buoni amici, in confidenza. Mica le ho detto che lei deve vendere un occhio, per l'amor di Dio, lei è libero, non siamo mica schiavi. Questa è una maniera paradossale per rappresentare gli anni del boom, che è stato il vero miracolo italiano, una cosa che non ci si immaginava, è come se fosse uscito da un'epoca arcaica e presente, proiettati nel mondo moderno. E Alberto Sordi che cade in disgrazia e si vende un occhio per il ricco palazzinaro che in realtà aveva bisogno di quest'occhio, poi alla fine non ce la farà, oppure sarà costretto a venderlo comunque l'occhio. Non vi faccio spoiler. Ecco, quale documentazione c'è e quali sono le tracce, le vestigia degli anni più splendidi di cui ancora viviamo di luce riflessa? Allora, tutto il boom economico italiano naturalmente è conservato all'interno degli archivi del Cinecittà e dell'Istituto Luce, ma esistono degli archivi, come per esempio quello della Discoteca di Stato, che conserva le trascrizioni sonore di grandi della nostra letteratura. Quando uno parla per esempio di Pierpaolo Pasolini, non sa che alcuni suoi documentari sperimentali stanno nell'archivio di un istituto musicale di musica contemporanea, e si vede Pasolini che gira all'interno delle borgate riprendendo gli stornelli, le cantate, e sono documenti dispersi in centinaia di archivi. Adesso se ci sente Veltroni ci fa un film subito. Questo è l'unico rischio. Ecco, questo perché accade? Ritorniamo al punto di partenza, perché nessuno ha mai pensato, ha mai voluto, o esiste ancora una sorta di damnatio memoriae che lambisce la contemporaneità, di fare il grande museo degli anni dal 45 in poi. Certo, non c'è la volontà di fare un discorso serio della nostra storia contemporanea, di mettere in ordine queste fonti che conoscono un po' gli addetti ai lavori, e le scuole per esempio non conoscono affatto, quando sono delle fonti libere, già disponibili, ma vanno conosciute, divulgate, spiegate. Capire come si faceva ricerca anche sonora sul territorio, questi che andavano con i registratori a prendere le musiche popolari, che tra l'altro, lì parlo da risorgimentale, è una grande tradizione nostra, cioè Costantino Nigra, l'assistente di Cavour, era uno studioso di canti popolari. Questa è la storia italiana. E passiamo a un'altra fase della nostra storia sulla quale ancora non solo non c'è chiarezza di racconto e di memoria, non c'è nemmeno chiarezza di reale svolgimento dei fatti, persi come siamo tra le interpretazioni, tra le doppie letture, triple letture, quadruplici letture. 14 morti e una ottantina di feriti per un attentato in una banca milanese. Altre esplosioni a Roma con una decina di feriti. Ci sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Per lo scoppio, 14 persone sono morte, una ottantina sono rimaste ferite o contuse. Ecco, questa è la strage di Piazza Fontana, l'episodio simbolo di tutto quello che poi verrà a seguire negli anni dopo, che abbiamo definito in maniera sommaria e abbastanza anche sfilacciata anni di piombo. Di questo esiste una memoria storica, cioè di quella che è stata il fluttuare della nostra politica, dalla Prima Repubblica agli anni del terrorismo, al passaggio dalla Prima alla cosiddetta Seconda Repubblica. Quali sarebbero le fonti archivistiche che andrebbero organizzate in un percorso museale anche per renderle intellegibili ai ragazzi delle scuole, visto che non se ne parla mai? No, non se ne parla mai. Il terrorismo è un'altra sacca di memoria nascosta. Ci stanno tutti i materiali delle teche RAI, ma tutti i materiali sonori, video, le fotografie dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio. Sono le fonti meravigliose che nessuno conosce. Abbiamo parlato di Piazza Fontana, chissà. Chi si ricorda che il giorno dell'attentato di Piazza Fontana vennero messe due bombe al Vittoriano? Io ho ancora le targhe con le schegge, ma questo lo so io perché sono un inquilino del palazzo. Sotto agli occhi. Ma nessuno si ricorda più. Ma gli archivi dei partiti non possono essere in qualche maniera resi disponibili? Quelli che sono rimasti di archivi dei partiti. Alcuni archivi sono andati a fuoco, sono dispersi. I grandi archivi dei grandi partiti, parlo di C, Partito Comunista, sono in fondazioni. Ma la storia dei partiti è poco organizzata. In questo hanno avuto una mentalità lungimirante solo il Partito Radicale, che ha documentato tutto, tutto reso disponibile, tutto immediatamente messo in rete. Ma è un esempio, un'eccezione all'interno della storia politica italiana. Il Partito Socialista non c'è più niente? No, è perso quasi completamente dall'abbandono della sede storica di Via del Corso. Tutti i documenti che erano lì non si sa che fine hanno fatto. Esistono tracce di questo archivio, ma l'archivio strutturato è ormai perso. Grazie Marco Pizzo, ci ha aiutato questa mattina a dare una rinfrescata alla nostra memoria storica e a lanciare un'idea che ci piacerebbe fare nostra. Perché non creiamo il grande museo, ma in maniera moderna, in maniera percorribile, visibile, degli anni dal 45 in poi, il museo della contemporaneità, un museo dei pensieri più che un museo degli oggetti. I pensieri si disperdono facilmente e se non si trova la maniera di ricostruire il filo dei pensieri perduti, non si ricostruisce la nostra identità e la nostra storia.